Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri. Siamo cresciuti, ci abbiamo messo circa 100 anni, ma ce l'abbiamo fatta. In un secolo la statura media di un cittadino europeo ha guadagnato 10 centimetri. La notizia arriva dalla Oxford Economy Center, ma il dato più sorprendente è che il maggior scarto sarebbe, pensate, avvenuto tra le due guerre mondiali, proprio durante la Grande Depressione. Anche nella vostra famiglia registrate un aumento di statura? Siete più alti dei vostri genitori, dei vostri padri, della vostra mamma? E i vostri figli vi stanno raggiungendo? Vi hanno già raggiunto? Allora misuratevi, confrontatemi e chiamatemi. 800 24 00 24, potete scrivermi al 349 238 6666 e come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. In linea con noi abbiamo il dottor Massimo Gualerzi, che è cardiologo ma anche esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica e autore di un libro che cito spesso, che a me piace molto e che vi invito a leggere, che si intitola Super Salute. Buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno Nicoletta, salve. Dottor Gualerzi, l'altezza è determinata dai geni, questo lo sappiamo bene, ma lo stile di vita aiuta, facilita, favorisce lo sviluppo e quindi anche la crescita. Sì, l'altezza e il peso di un individuo sano dipendono, come un po' tutte le cose, dalle caratteristiche genetiche che ereditiamo dai nostri genitori, ma come sappiamo bene, anche fortunatamente, le condizioni diciamo ambientali, le condizioni affettive, ormonali e quelle diciamo nutrizionali sono altrettanto fondamentali. Quindi diciamo che anche se viviamo, no, in un ambiente o abbiamo geni diciamo favorenti lo sviluppo di una altezza importante, se non viviamo in un ambiente diciamo ideale, questo non può essere raggiunto. Quindi, lei, dottor Gualerzi, ha citato anche le condizioni affettive. Sì, queste sono molto importanti, soprattutto quando parliamo di un complesso diciamo particolare come quello dell'altezza, dove diciamo l'umore, no, lo stress o comunque la quiete, il benessere, quindi anche l'affetto, può giocare un ruolo importante nel determinare la secrezione di ormoni che poi sono fondamentali per far esprimere al pieno le nostre potenzialità genetiche, quindi al pieno la nostra altezza. Ricordo diciamo un articolo che, riprendendo una ricerca americana, che appunto sottolineava questo stretto legame, diceva le carezze fanno crescere, ed è vero. È vero, in effetti diciamo che se da una parte è vero che siamo cresciuti molto, più della mutazione genetica, che sappiamo occorrono milioni di anni per modificare i geni, diciamo che è dovuto proprio alla diversità che abbiamo all'interno della famiglia, quindi una famiglia più coesa, no? E in questi anni dove diciamo anche l'affetto è stato dimostrato in modo più evidente, ma sicuramente dove abbiamo tutti vissuto anche in un ambiente diciamo più economicamente, socialmente ideale. Questo ha dato luogo e ha fatto sì che l'altezza si potesse esprimere, i nostri geni si potessero esprimere, e se c'è una cosa che in questi anni è veramente cambiata, diciamo che è l'alimentazione. Oggi sappiamo bene che anche se non mangiamo tanto e magari ci teniamo, gli alimenti che ci vengono proposti o che mangiamo quotidianamente sono ricchi di nutrienti e di vitamine che addirittura quasi in eccesso, e spesso questi sono responsabili anche di malattie cardiometaboliche, questo eccesso di nutrienti e di vitamine, ma nel caso della statura diciamo sono fondamentali, perché quando mangiamo e se mangiamo bene e se ci integriamo bene, diciamo la statura può diciamo arrivare al massimo delle nostre potenzialità. Avete mangiato bene, siete diventati grandi, parliamo di altezza, 800 24 00 24, confrontatevi e chiamatemi. Si dice altezza mezza bellezza, dottor Gualerzi, ma di questo magari parleremo con i nostri ascoltatori per capire se sono d'accordo, ma io tornerei ai fattori che hanno permesso questo aumento di statura. Mangi che diventi grandi. Noi sappiamo che il cibo, come lei ha sottolineato, influenza i nostri geni, lo sappiamo che il può accenderli o spegnerli, quindi anche la scelta, quindi mi rivolgo ai genitori che hanno ragazzi che stanno crescendo, la scelta di quello che mettiamo nel piatto è importante. È molto importante, anche perché diciamo che il cibo ci può far crescere anche male, perché parleremo anche di il fatto che può farci ingrassare, quindi in questo caso stiamo parlando di altezza. Innanzitutto bisogna puntualizzare che appunto i giochi si chiudono abbastanza precocemente, perché l'altezza, diciamo, finiamo di crescere attorno, diciamo, alla pubertà, quindi verso i 16 o 17 anni per le femmine e verso i 18-20 anni per i maschi, quindi bisogna iniziare precocemente ad alimentarci bene. Come abbiamo detto, la crescita staturale è regolata da diversi geni che a loro volta determinano l'attivazione di alcuni ormoni. Uno dei più importanti è proprio l'ormone della crescita, no? Il growth hormone, GH, quello l'abbreviazione anglosassone, che proprio favorisce la crescita sia delle ossa che della muscolatura. Può essere stimolato naturalmente attraverso l'introduzione di cibi che contengono particolari oligoelementi. Gli oligoelementi sono quelle sostanze come il magnesio, il cromo, lo zinco in particolare. Questi li troviamo, guarda caso, e niente è casuale, proprio in quei cibi che consigliamo per svilupparsi, per crescere bene, ma anche per migliorare la propria salute cardiometabolica e cardiovascolare. Il magnesio lo troviamo infatti nei legumi, il cromo lo troviamo in molte verdure come gli spinaci, ma anche negli oli vegetali come l'olio d'oliva, e lo zinco lo troviamo principalmente nei cereali integrali. Ecco che, diciamo, fare un'alimentazione che prevede almeno 3 volte alla settimana un piatto di cereali integrali, un po' di proteine vegetali come ad esempio le lenticchie, i ceci, la soia, i fagioli, e condite con un po' di verdura e l'olio d'oliva, ad esempio, possono stimolare in modo, diciamo, significativo il growth hormone e quindi garantire ai nostri bambini di crescere e di avere una quantità di GH circolante sufficiente per stimolare la loro crescita. No, sicuramente però avere a disposizione il growth hormone e quindi questo ormone non è sufficiente, perché, diciamo, senza le strutture, le impalcature, quindi quelle sostanze che vanno a comporre l'osso e il muscolo, diciamo, il GH non può niente. Sì. Quindi dobbiamo fare? Quindi sì, dobbiamo avere un'alimentazione ricca di calcio, di vitamine D e di proteine. Anche qui, guarda caso, la natura ha nascosto questi elementi proprio nelle cose che citiamo in ogni dove per essere benefiche per la nostra salute. Diciamo, il calcio lo troviamo sicuramente nel latte, ma lo troviamo anche nei cereali, nei legumi e nelle verdure verdi. La vitamina D non la troviamo in particolari cibi, magari un po' nel pesce e nei funghi, ma soprattutto se viviamo bene all'aria aperta, quindi stare fuori, prendere sole. Adesso d'estate un po' di scorte ne abbiamo fatte. Sì, ne abbiamo fatte, ma anche sostanzialmente esporsi al sole, stare all'aria aperta anche nelle giornate di sole più fresche o comunque in autunno e in inverno, stimola comunque la produzione della vitamina D. Non ci fa crescere se siamo già cresciuti, ma ci aiuta. Beh, ci aiuta, intanto abbiamo fatto anche delle trasmissioni per, certo, dire quanto, fantastico, aiuta anche il sistema cardiovascolare, la pelle, non solo. Lei ha letto questa notizia che io ho letto su internet dei funghi prataioli, sì, che contengono vitamina D, però devono essere esposti 2 ore al sole, prendere un po' di sole per assicurare il fabbisogno di vitamina D quotidiano? Ma sì. Mi racconta? E poi alla fine diciamo che è anche difficile mangiare tutti i giorni funghi alla fine per arrivare alla vitamina D, però pensiamo che quando mangiamo ad esempio i funghi e li lasciamo almeno 2 ore al sole, abbiamo, diciamo, la produzione e la sintesi di vitamina D che poi può essere assimilata, e soprattutto abbiamo dei precursori che possono stimolare nel nostro organismo la giusta quantità di vitamina D. Apriamo una piccola parentesi sui funghi, adesso poi diventa stagione, torna ogni anno l'allarme: non mangiate i funghi che non conoscete, portateli sempre a controllare, perché le intossicazioni dei funghi sono veramente pericolosissime, dottor Gualerzi. Sì, sono veramente un guaio, molto spesso le persone, anche approfittando del fatto di fare una scampagnata, vedono un fungo, lo prendono, lo raccolgono e poi vantandosi il fatto di averlo trovato lo mangiano. Io credo che sono proprio, non è un esperto e non può, diciamo, e non lo riconosci in pieno, è sempre non meglio. Improvvisiamoci. Oggi sono molti centri che riconoscono e che sono disponibili anche gratuitamente per studiare, per valutare quello che abbiamo raccolto e quindi mangiarlo in tutta sicurezza, perché queste possono dare dei problemi molto gravi, anche come epatite fulminanti, e quindi non solo intossicazione ma addirittura problematiche letali. Quindi chiusa la parentesi, ma sui funghi torneremo, perché in autunno rinnoviamo spesso l'invito a controllarli e quindi non improvvisarsi esperti, perché si rischia molto. Dicevamo che però anche questo ormone della crescita è facilitato e stimolato anche dal riposo. Quando ci mandavano a letto subito dopo carosello, in fondo avevano c'era una ragione. Sì, avevano molto ragione, anche lì il buon senso, diciamo, che aveva nascondeva, diciamo, un secondo fine, che quello appunto che dormire bene, riposarsi bene, soprattutto nelle prime ore della sera, quindi dalle 9:30 a 10 in avanti, no, spegne quegli ormoni che vanno ad essere, quindi a contrastare la crescita, gli ormoni principalmente il cortisolo, l'ormone dello stress, e vanno a favorire invece la produzione di GH, appunto, di testosterone, di tutti quegli ormoni anabolici che favoriscono non solo lo sviluppo dell'altezza, ma anche quello della memoria e quindi anche, diciamo, uno sviluppo psicofisico completo. Anche qui quindi diciamo che non inventiamo niente, però andare a letto, dormire bene, diciamo, lasciare da parte lo stress, e sono fenomeni, sono situazioni fondamentali per crescere dal punto di vista, diciamo, della statura, ma anche dal punto di vista psicologico e fisico in modo, diciamo, appropriato e sano. Lei ha mangiato bene, dottor Gualerzi? Io ho mangiato bene e ho riposato bene, infatti sono diventato più alto di mio padre e di mia madre. Però adesso non ci voleva nemmeno tanto, devo dire. Quanto è alto lei? Io sono 1,81. Vabbè, però, tra l'altro, per quanto riguarda l'altezza, c'è una formula che si trova su molti siti che permette di conoscere l'altezza prevista per il ragazzino. Ve la leggo, poi semmai la commentiamo anche con i nostri esperti. La formula dice di sommare le due altezze dei genitori in centimetri, di aggiungere 13 centimetri nel caso del maschio, di sottrarne sempre 13 nel caso della femmina, e poi si divide per due. Il risultato è questa statura prevista, l'errore è di più o meno 10 centimetri che fanno la differenza. Io l'ho provata su di me e devo dire che questa formula ci ha preso. Quindi se volete, intanto che chiamate l'800 24 00 24, raccontarci se siete più alti dei vostri genitori, se i vostri figli vi hanno superato, vi hanno raggiunto, addirittura volete ipotizzare, così fare questo calcolino per la statura prevista dei vostri figli, noi vi aspettiamo. Ma soprattutto chiederei alle amiche di Essere Benessere di intervenire per raccontarci cosa è successo alle donne della loro famiglia, perché nello studio che ho citato all'inizio della Oxford Economy Center le donne sono escluse per carenza naturalmente di dati pregressi compatibili con quelli attuali, quindi dobbiamo arrangiarci noi. 800 24 00 24, abbiamo Marco dalla provincia di Roma. Buongiorno Marco. Buongiorno. Buongiorno. La mia era solo una testimonianza relativa al discorso delle carezze che avete fatto a inizio trasmissione. Sì. La mia famiglia è composta da me, mia moglie e mia figlia, geneticamente nostra figlia, sì, e da un bambino che abbiamo adottato in Bulgaria 2 anni fa. Sì. Bambino che aveva 5 anni e mezzo quando lo abbiamo portato qua in Italia, prima visita dal pediatra, discorso dei percentili si posizionava intorno ai 3 anni e mezzo. Sì. È passato un anno, il bambino adesso è al percentile del 6° anno, cioè è rientrato assolutamente. Ha fatto un salto d'altezza, non riusciamo a stargli dietro i pantaloni. Ma Marco, avete dovuto fare di tutto il guardaroba nuova. Marco, e lei questa, così, questa crescita del bambino la lega anche e soprattutto all'ambiente che l'ha accolto? La lego sicuramente all'alimentazione, perché era un'alimentazione abbastanza povera, certo, anche se ricca di vegetali e frutta, ma scarsa di proteine e compagnia e cose simili. Però da quello che ci dicono sembra che l'ormone della felicità, da come lo hanno chiamato gli psicologi che ci hanno seguito, ha una grossa importanza con questi bambini, cioè loro rimangono piccoli finché rimangono in istituto, certo, quando entrano in famiglia e si trovano bene hanno l'esplosione. È proprio l'accudimento, il potere delle carezze, come dicevamo Marco. Grazie, tanti auguri alla sua bella famiglia, grazie per essere intervenuta a Essere Benessere. Marco, buona giornata. Anche a lei, arrivederci. Svegliarsi la mattina con la voglia di parlare. Ma voi, ditemi la verità, qual è l'ultima volta che vi siete misurati? Se vi piacerebbe avere almeno un paio di centimetri in più, giocate d'astuzia, misuratevi al mattino e sarete accontentati. Ve lo dico, non c'è trucco, eh? Proprio me lo può confermare anche la nostra dottoressa Laura Bertelè, che è in linea con noi, fisiatra, specialista in terapia fisica e riabilitazione motoria, psicologa, direttrice sanitaria della Fondazione Apostolo. Dottoressa Bertelè, buongiorno e bentornata. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Al mattino anch'io sono una persona, direi, alta, una donna alta. Arriva a 1,68. Sì, in effetti al mattino si è più alti perché di notte la muscolatura si rilassa, si allunga, perché nel momento in cui diminuisce il tono, in realtà si allunga, quindi la colonna vertebrale si distende e si è più alti al mattino. Infatti, se fate caso, quando vi sedete alla guida, dovete aggiustare lo specchietto, alla mattina dovete metterlo più alto e alla sera più basso, perché durante il giorno piano piano ci si schiaccia, mentre di notte ci si riallunga. Perché proprio nel corso della giornata la nostra altezza ha delle piccole variazioni. Ma, dottoressa Bertelè, anche gli anni portano dei cambiamenti. Infatti, a partire da una certa età, che non è tanto avanti, una certa età, si tende a rimpicciolire. Naturalmente non ce ne accorgiamo, ma qualche cosa cambia. Esattamente, è sempre la stessa ragione, nel senso che man mano che viviamo la muscolatura si accorcia, si contrae per i vissuti sia meccanici, nel senso le posture che abbiamo, se stiamo tanto tempo in auto, se stiamo molto tempo seduti, e soprattutto anche emozionali, che ci schiacciano, cioè aumentando il tono dei muscoli, appunto i muscoli ci schiacciano. Ad esempio, le persone che hanno i muscoli molto contratti possono avere una scoliosi, che di fatto toglie anche molti centimetri all'altezza. Negli anni poi questa muscolatura che ci schiaccia può anche portare allo schiacciamento vero e proprio delle vertebre, e quindi ulteriormente ci abbassiamo, fino anche a tanti centimetri, se la muscolatura appunto ci comprime proprio come degli elastici che ci tirano verso terra. Dottoressa Bertelè, ci sono dei segnali che noi dobbiamo tenere sotto controllo, che possono così farci capire che qualcosa sta cambiando? Beh, direi che quello che mi dicono spesso i pazienti, ad esempio, che notano che i pantaloni incominciano a diventare troppo lunghi. Le donne dicono: riuscivo a prendere dei vasetti sul piano alto della cucina, non ci riesco più, oppure faccio fatica a mettere i piatti nello scolapiatti quando lavo. Ecco, ci sono dei piccoli segni, non riesco a prendere le cose un po' più in alto, che ci dicono che ci mettono in allerta e bisogna a questo punto correre ai ripari allungando i muscoli. Ecco, allungando i muscoli, perché qualche cosa si può fare per mantenere la nostra altezza, e questo è anche un'operazione che ci fa mantenere in salute. Quali sono le attenzioni che dobbiamo avere? È sdraiarci. Cioè, il discorso molto molto importante, che in realtà i nostri vecchi avevano sempre il buon senso, ad esempio, di fare sdraiarsi un momentino dopo mangiato. Sì. Ecco, interrompere la giornata, tanto più se dobbiamo stare seduti o se siamo sotto stress. Sdraiarci anche in ufficio, ad esempio, uno può, se è da solo naturalmente, può sdraiarsi sul pavimento, per esempio, anche 10 minuti, oppure quando torna a casa si sdraia su un tappeto. Sì. E sdraiandosi, magari ascoltando una musica che ci rilassa, vuol dire moltissimo. E poi andare a letto presto, come diceva prima il collega, è fondamentale, perché le ore in cui si recupera anche l'altezza sono soprattutto le prime ore della notte. Dottoressa Bertelè, lei ha detto vi sdraiate su un pavimento, su un tappeto, quindi sempre su qualcosa di duro, non basta sdraiarsi sul divano, non funziona. No, poi sul divano siamo in genere mezzi accoccolati o non certo in posizione orizzontale, è la posizione orizzontale che aiuta proprio a riallungarci. E in questo caso le gambe vanno tenute dritte o piegate? Esattamente, ecco, le gambe andrebbero tenute. Vede, sembra una domanda, perché allungate, e poi se la persona vuole stare proprio in posizione dovrebbe tenere le gambe vicine, quindi noi consigliamo di legarle con un foulard in modo di non doverle tenere vicine con i muscoli. Allora, adesso mi spiega, fantastico. Allora, Laura Vanossi non dovrebbe neanche farlo perché è altissima, ma per tutte le amiche che come me, insomma, ci tengono a mantenere almeno la loro altezza, da oggi proviamo in ufficio, la vedo dura, ma tornate a casa, ci stendiamo 10 minuti. Sì, almeno 10 minuti. Almeno, dai 10 minuti a un quarto d'ora, in posizione, quindi belli lunghi. Dottoressa Bertelè, le indicazioni precise? Sì, sono estesi, con la testa, se uno fa fatica a tenerla proprio appoggiata per terra con un piccolo cuscino sotto la nuca, braccia aperte, le gambe legate con un foulard, sentirsi qualcosa, essere molto caldi, quindi piuttosto coprirsi con una coperta, sentire una musica rilassante, meglio ancora se prima ci facciamo la bella doccia calda prolungata. Sì. E un bagno, e questo è come rimetterci in tiro, come appena svegli, ecco. E poi ci mettiamo belli in tiro e si esce. Luca da Biella, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Mi dica. Volevo porre una questione relativamente alla crescita di mio figlio. Sì. a 12 anni, 1,75 m. Sì. Sempre stato una testa sopra sopra i propri compagni, scuola, di sport, eccetera. Pratica calcio a livello ovviamente diciamo dilettantistico 2 o 3 volte alla settimana come sport. Volevo chiedere, visto che l'altezza sta progredendo in maniera veramente importante, se c'è qualche suggerimento che i suoi ospiti ci possono dare per supportarla al meglio. Senta Luca, ma lei è alto? 1,84. E sua moglie? 1,65. Quindi c'era da aspettarselo, dottor Gualerzi? C'era da aspettarselo questo dodicenne, alto 1,75? Sì, anche perché quanti anni ha detto che ha? Che non 12 anni. Sì, molte persone, cioè questo andrà giudicato poi alla fine della pubertà, perché sì, molte persone, molti ragazzi raggiungono la propria altezza massima molto precocemente. E altre la raggiungono proprio sfruttando gli ultimi anni della pubertà. Quindi ancora presto, intanto si vede, ma nel frattempo un consiglio dal dottor Gualerzi e un consiglio dalla dottoressa Bertelé per quei ragazzi che crescono molto e quindi i genitori naturalmente dicono: beh, a parte dover cambiare un po' il guardaroba, ma che cosa posso fare? Dal punto di vista alimentare, dottor Gualerzi? Beh, supportarli con una buona dieta, come abbiamo detto, soprattutto proteica, perché in realtà le ossa si allungano, spesso i muscoli non sono adatti a supportare un'impalcatura di questo tipo e quindi i bambini fanno un po' più fatica nella motricità, quindi sicuramente i consigli che abbiamo dato sono validi, soprattutto supportarli con una buona dieta proteica perché possa, diciamo, in questo modo potenziare comunque la muscolatura e seguire l'allungamento delle ossa. Dottoressa Bertelé? Effettivamente la muscolatura spesso fa fatica a seguire l'allungamento delle ossa e secondo me è molto importante fare un allungamento muscolare, nel senso che proprio fare sia quello che abbiamo detto prima, sì, per i ragazzi che però fanno fatica a fare, oppure fare veramente delle sedute di allungamento, perché se no la muscolatura li schiaccia invece di permettere una verticalizzazione armonica, certo, li schiaccia e quindi li avvita o compaiono scogliosi, ipercifosi, appunto delle posture viziate. Grazie dottoressa Bertelé. Essere e benessere. Questo è l'ombelico del mondo. Ci abbiamo messo 100 anni per crescere 10 centimetri in altezza, mentre pochi mesi bastano a far aumentare il nostro girovita. Dottor Gualerzi, veniamo alle dolenti note, o se preferiamo al cuore del problema, perché più che l'altezza per la nostra salute conta la pancia. 800 24 00 24 si misura sempre in centimetri, ci sono dei centimetri, dottor Gualerzi, che ci dicono, fotografano la situazione e ci dicono se rischiamo o no. Quali sono? Sì, diciamo che misurarsi la pancia, e intendiamo pancia quella linea immaginaria che passa dalle spine iliache, che sono le ossa che vediamo direttamente sopra il bacino e che passano idealmente per l'ombelico, diciamo che misurandoci questo è uno specchio della nostra salute cardiometabolica e cardiovascolare. Diciamo che non dovrebbero superare gli 88 centimetri per quanto riguarda le donne e i 102 centimetri per quanto riguardano gli uomini. Sicuramente, se è vero che siamo più alti dei nostri genitori, siamo anche, probabilmente abbiamo anche un po' più pancia. Questo sì, non siamo vuol dire più forti di pancia. Un po' più forti di pancia. Questo non vuol dire che siamo più grassi in assoluto, ma vuol dire che sicuramente, anzi, quello che dico io solitamente, è che siamo degli uomini tendenzialmente più magri, uomini e donne, ma che tendono ad essere, diciamo, ad avere la pancia. E questo non dipende dal fatto, no, che mangiamo tanto, mangiamo molto, ma che mangiamo male, quindi quando mangiamo e soprattutto cosa mangiamo. No, il grasso viscerale infatti è un fenomeno che correla di più con la qualità del cibo e con quando appunto introduciamo cibo, è un fenomeno infiammatorio. Sì. E ad esempio mangiare velocemente, stressati, magari intanto che telefoniamo, che stiamo lavorando, che addirittura non sentiamo neanche il gusto del cibo perché stiamo facendo dell'altro, cibi sempre più raffinati, quindi ad alto indice glicemico, porta alla progressiva produzione di quegli ormoni che vanno a farci assimilare il grasso proprio a livello dell'addome. E questo grasso, diciamo, funziona con una vera e propria ghiandola che produce sostanze che ci fanno ammalare, alzano la pressione, la glicemia e facilitano anche purtroppo la formazione di trombi che poi sono alla base delle malattie tipo ictus, infarto, certo, comunque le malattie aterosclerotiche. Quindi, dottor Gualerzi, quando aumenta la pancia vuol dire che la qualità del cibo non è adeguata, non è buona. Mangiamo male, non tanto in quantità, ma come qualità. Ho capito bene? Sì, bisogna proprio far mente locale su questo concetto. Non concentriamoci sulla quantità, no? E spesso nessuno di noi abbonda. Oggi non siamo grassi perché mangiamo tanto. Oggi siamo grassi e abbiamo la pancia perché mangiamo male, cibi sbagliati e fuori tempo. Quindi, ad esempio, saltiamo i pasti o comunque certo. Non abbiamo un equilibrio durante la giornata dell'introito calorico. Rita, dalla provincia di Rovigo, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, eccomi qua. Io ho telefonato ancora tempo fa quando dovevo indovinare i centimetri, quanti erano i centimetri per l'uomo e per la donna, quando c'era il dottor Gargiulo, io ho vinto il libro. Brava, quindi e non li ha più dimenticate, e quindi li sappiamo, Rita. E quindi già questo. Ecco, so che sono 88 e 102 per gli uomini. Vede? Solo che volevo chiedere che io sto bene di salute per adesso, insomma, però sono dimagrita di peso, sono 1,68 con 63-64 di peso, ma però il mio giro vita non cala, sono 94. Volevo sapere che rischi corro e se sono in rischio, insomma. Senta Rita, non si può chiedere l'età alle donne, ma più o meno 56. Dottor Gualerzi, perché ho chiesto l'età a un'amica di Essere Benessere? Perché l'età può dire anche in che fase della vita la donna si trova, e noi sappiamo bene che con il tempo, quando andiamo in menopausa, ci avviciniamo alla menopausa, ce ne rendiamo conto, la nostra struttura fisica cambia, diventiamo un pochino più pere, no, più mele rispetto a pere, insomma la pancia diventa più evidente e diventa difficile farla scendere. Dottor Gualerzi. Sì, valgono un po' le stesse regole che abbiamo detto prima, e poi diremo anche qualcosa su come far scendere questa benedetta pancia. E nel sì. caso in cui, diciamo, invece parliamo di una donna che magari sta entrando in menopausa, le cose si complicano un pochino, perché soprattutto quando insieme a questo problema abbiamo anche magari un pochino di caldane, o comunque no, quelle che vengono chiamate caldane, o comunque la pressione tende un pochino a instabilizzarsi, questo è proprio espressione del fatto che le donne in menopausa tendono a diventare più sensibili al sale, quindi quando mangiano anche la quantità di sale che hanno sempre mangiato nel corso della vita, ricordiamo che mangiamo molto più sale di quanto non dovremmo fare, però le donne in menopausa tendono a diventare sali sensibili, cioè riescono ad eliminare meno bene quella stessa quantità di sale che hanno mangiato magari per tutta la vita. Questo comporta un introito, quindi questo comporta il fatto che il sale resta nell'organismo, però il sale trascina con sé l'acqua, sì. quindi si tende a gonfiare, questo fa andare su banalmente la pressione, ma facilita anche i dolori articolari, perché facilita la perdita di calcio e quindi l'osteoporosi, e facilita proprio quel fenomeno che abbiamo appena detto dell'aumento del grasso viscerale, perché il sodio in modo un po' complesso ma va a stimolare, diciamo, degli ormoni che anche qui non solo fanno trattenere il volume ma fanno anche incrementare il grasso viscerale. Quindi è una buona regola molto semplice. Riduci il quella sale. Che andando su con l'età, anche gli uomini di avere l'età, ma soprattutto le donne, devono drasticamente ridurre la quantità di sale. Quindi se sei in menopausa, riduci il sale o eliminalo? Sarebbe bene quasi eliminarlo. Anche perché intanto c'è ovunque il sale. Sì, nell'alimentazione comune. Rita, dobbiamo toglierci il sale? Sì, ma infatti io vi ascolto sempre e aumento tutte le erbe aromatiche, già lo diminuisco perché ho problemi di circolazione, quindi per lì sto molto attenta, però mi sento sempre gonfia, non so che magari è un problema di intestino, non posso mangiare la frutta dopo i pasti per esempio perché mi gonfia. Allora, dottor Gualerzi, lei ha dato un'indicazione importante a tutte le donne in menopausa, in generale vale per tutti perché di sale ne consumiamo troppo, ma soprattutto in menopausa le donne diventano più sensibili. A Rita e agli ascoltatori e alle ascoltatrici che comunque hanno questo problema della pancia che tendenzialmente non va giù e rappresenta un rischio per la nostra salute, daremo dei consigli subito dopo le informazioni sul traffico. 800 24 00 24. Intanto continuate a misurarvi, mi arrivano tanti messaggi, uno molto tenero da Antonella che mi scrive: Nicoletta mi aiuti, mia figlia 17 anni appena compiuti mi incolpa della sua altezza, è 1,62. Perfetto, può chiedere al dottore suo ospite se ha ancora in tempo per alzarsi anche di qualche centimetro, sono alta 1,56 e mio marito 1,73. Dottor Gualerzi, 1,60. Quanti anni ha la ragazza, abbiamo detto? 17 anni. Fino a 20 anni le ragazze in realtà possono anche crescere. Che possono spingersi. Essere e benessere. Pancia in dentro, petto in fuori, dottor Gualerzi. Innanzitutto, esattamente dove si misura questa pancia, il centimetro lo facciamo passare a livello dell'ombelico? Sì, a livello dell'ombelico e idealmente in una linea che unisce le due spine iliache, che sono le ossa appunto che abbiamo ai lati del fianco, quelle più in alto del bacino. Ok, quindi una linea immaginaria che... appunto il classico punto vita, insomma. Il punto vita, allora, per indicazioni per tirare un po' giù la pancetta. Sì, innanzitutto io vorrei dire di non cadere nella tentazione, come facciamo spesso, di pensare che si dimagrisca solo calando la quantità o facendo una dieta ipocalorica. Spesso, soprattutto in età diciamo più avanzata, ma già diciamo dopo la pubertà, quando si tolgono calorie, a meno che queste non siano veramente in eccesso, si rischia di abbassare semplicemente il metabolismo, sì, e quindi il metabolismo basale. Quindi bisogna non cadere nella tentazione di mangiare meno, ma dobbiamo cadere nella buona pratica di mangiare meglio. Ciò che bisogna fare appunto è quello di abbandonare i cibi raffinati, quelli ad alto indice glicemico, quindi abbracciare un'alimentazione più integrale, quindi anche non abbandonare, come molte diete vogliono, diciamo i carboidrati, ma abbracciare i carboidrati e quindi i cereali integrali. Non saltare i pasti, e questo è un errore che grandemente si fa, e soprattutto il pranzo. Il pranzo è un pasto fondamentale a metà giornata, dove abbiamo bisogno sicuramente di tutti i nutrienti, e se non li troviamo attraverso il cibo li andiamo a prendere andando a mangiarci muscolo, ma andando anche a creare uno stress che poi è alla base, stress ossidativo, che poi è alla base proprio del grasso viscerale. Mangiare più lentamente, quindi un consiglio è che appoggiare anche le posate intanto che siamo a tavola, non mangiare come se avessimo diciamo da prendere il treno che parte, ma appunto stare tranquilli, mangiare, concederci almeno un quarto d'ora per mangiare, spesso mangiamo in due minuti, no? E soprattutto vale il concetto che abbiamo detto prima, riposarci, dormire bene, soprattutto nelle prime ore della sera, perché come abbiamo già detto, no, durante la notte si producono sostanze che vanno a far calare anche la pancia. L'ultimo consiglio, sì, è quello, secondo me, più importante, no? Anche che mi sentivo di dare alla signora Rita prima, che è giusto introdurre le erbe, giusto togliere il sale, giusto mangiare bene, ma ricordiamoci che a tavola ci si va per curarsi, quindi noi ci sediamo a tavola per introdurre il più possibile cibi che ci facciano bene, invece si pensa a dimagrire facendo attività fisica. E l'attività fisica deve essere, in primo luogo, costante, in secondo luogo non solo l'attività aerobica, quindi non solamente la passeggiata, la corsa, la cicletta o la bicicletta, ma anche un'attività di muscolazione, quindi un'attività che potenzi i muscoli, perché ricordiamo che... Come mi faccia un esempio. Ad esempio fare pesi o comunque fare pilates. Vabbè. E quindi rafforzare, allungare, tonificare i muscoli con i pesi, con i movimenti, quella classica ginnastica che facevamo una volta a scuola, quella anche a corpo libero, quindi potenziare, rafforzare, allungare i muscoli è uno stimolo fondamentale per tenere alto quegli ormoni, ancora guarda caso il GH, il testosterone, ma tutte quelle sostanze fondamentali per innalzare il metabolismo basale e per combattere il grasso viscerale. Quindi mangiamo bene, ma soprattutto muoviamoci in modo articolato, non pensando di far solo attività aerobica, ma anche un'attività di muscolazione, quindi di potenziamento della muscolatura. Fare tanti addominali, mi scrive Mauro D'Arieti, quanto aiuta a ridurre la pancia, visto che non ho il tempo di andare in palestra? Banalmente si pensa che facendo gli addominali cali la pancia, in realtà non è così, sicuramente si fortificano il piano addominale, quindi la pancia può restare più contenuta, ma non è l'unico muscolo da potenziare, intanto si può anche non andare in palestra a fare le flessioni, fare i piegamenti sulle gambe, le flessioni sulle braccia o prendere un manico di scopa e fare delle torsioni per potenziare tutta la muscolatura in casa semplicemente e non accontentarsi dei soli addominali, perché purtroppo non siamo così, o comunque siamo molto intelligenti, ma non è così semplice dire faccio addominali, mi cala la pancia, ma dobbiamo potenziare tutta la muscolatura, perché stiamo parlando di metabolismo e non di una zona precisa. Saltare la corda? Saltare la corda rientra più nell'attività aerobica, quindi la corda è più un'attività tipo la corsa, piuttosto che invece quella che stiamo proponendo adesso, che è un'attività di potenziamento muscolare. Fare piegamenti sulle gambe. Aiuta. Vito da Avellino e Alessandro da Lucca. Vito, buongiorno. Salve, salve, buongiorno. Sì, va bene, io volevo delle informazioni che in parte mi sono state già date da quest'ultimo intervento del dottore, perché avevo chiesto appunto che siccome faccio molta attività sportiva, nel senso che io corro e vado in bici, diciamo alternando le due attività, però l'unica cosa che non riuscivo a vedere, cioè come risultato, peso e appunto di avere sempre la pancia, di avere sempre questa pancetta un po' più gonfia rispetto poi al resto del corpo. E quindi volevo delle informazioni in merito, però dall'ultimo intervento bene ha già capito, per cui a Vito potrebbe fare delle torsioni, quelle con il manico di scopa, come diceva lei? Glielo spieghiamo? Può fare piegamenti, può fare flessioni e via dicendo. Un'altra cosa che consiglio a Vito è questo, sicuramente, almeno essendo la voce, lavorerà, quindi che penso sia un uomo, no, che lavori, ma comunque che abbia altre attività, non fa lo sportivo professionista. Sì. Ricordiamo che molto spesso gli amatori corrono, vanno in bici, cioè riducono lo sport, soprattutto quello aerobico, che è molto dispendioso, quasi come diventa uno stress, no? Perché ricordiamo che noi molto spesso emuliamo gli sportivi agonisti, ma questi si riposano, quindi finito l'allenamento vanno a letto, si fanno massaggiare e quindi hanno uno stacco netto. Noi spesso ritagliamo e facciamo molte attività aerobiche in intervalli di tempo e questa alla lunga, se non ci prendiamo le giuste pause, può diventare addirittura controproducente. Quindi io delle volte consiglio addirittura paradossalmente alla gente di fare un po' di meno, di riposarsi un po' di più e di introdurre, come appunto detto prima, anche l'attività di resistenza muscolare e di potenziamento muscolare. Abbiamo tempo di sentire Alessandro che ci chiama da Lucca. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Eccoci qua, mi dica. Niente, io volevo sottoporre questo mio caso. Sì. Ho smesso di fumare nel 2002, quando è nato mio figlio. Bravo. E praticamente sono ingrassato, ovviamente, però mi sono alzato di 2 centimetri. Dai, e potrebbe essere uno dei vantaggi della cessazione del fumo. Dottor Gualerzi, chi smette di fumare diventa più alto? Beh, questo credo che sia legato più a motivi che citava prima la dottoressa Bertella. Sicuramente il fumo ci disidrata anche, quindi ci fa avere un'alimentazione, ci fa assorbire meno bene i nutrienti, quindi penso che all'età del signore, diciamo che il fatto che si sia alzato sia più legato al fatto dell'idratazione dei dischi intervertebrali, il fatto che magari abbia sostenuto uno stile di vita migliore. Quindi i dischi più idratati l'hanno un po' allungato, giusto? Sì, da 11 a 11 e mezzo. Da 11 a 11 e mezzo. Beh, insomma, è anche, mettiamolo come uno dei vantaggi dello smettere di fumare. Grazie Alessandro da Lucca. E avendo iniziato presto a fumare, probabilmente ho bloccato un po' di crescita. Andremo a fondo di questa cosa, magari ci sono dei ricercatori che hanno indagato un po' il fenomeno. Dottor Gualerzi, devo salutarla, ma soprattutto voglio ringraziarla per essere stata con noi, per averci dato tanti consigli preziosi. Grazie dottor Gualerzi. Grazie e buona giornata. Gianmarco Ferronato in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, Essere Benessere se ne va e torna domani alle 11. Buonissima giornata. Essere Benessere.